sillabe mentalmente. Professor Barbanti, che dice? Tari, tari, amici miei, con Imu e Yuk sono Giacciuk, la tia per mia zia, la Tari ci brucia i danari. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Allora, intanto non era un cobra. È vero. Ecco, ne hai sentito parlare di questa notizia? Quello che ha fatto una bella sorpresa a una famiglia inglese. In realtà non era un cobra, ma un pitonaccio, cioè, un pitonone. Tu immagina di trovartelo dentro il contatore del gas, no? Un serpente tutto aggrovigliato lì dentro. Come io caccerei reagisci? Un tale urlo che mi sa che il pitone sviene. Allora, quello lì era, per la precisione, un pitone palla, chiamato in questo modo per la sua tendenza proprio ad aggrovigliarsi fino ad assumere le sembianze di una palla, e che aveva ben pensato di aggrovigliarsi nella caldaia di questa casa londinese. Caldaia che quindi aveva smesso di funzionare, così quando la famiglia ha aperto lo sportello per controllare il problema tecnico, trac, hanno trovato l'animale, il simpatico animale. E non capita certo di frequente, per fortuna, che la causa sia un pitone. Capita però spesso che la nostra caldaia non funzioni a dovere, e rispettando alcune frequenze è un dovere proprio farla controllare. Un tema classico per l'autunno, stagione in cui si riaccendono i riscaldamenti, e oggi nella prima parte di Cuore e Denari, un tema naturalmente tradizionale in questo periodo, torniamo a riparlarne perché ci sono delle novità. Dal 15 ottobre scatta l'obbligo per i proprietari di casa di un nuovo modello di libretto di impianto. Vi spiegheremo di che cosa si tratta. E dopo aver acceso la caldaia, senza pitone naturalmente, certo, nella seconda parte della trasmissione accenderemo i riflettori su una malattia della pelle che in autunno, come molte altre patologie cutanee, torna a riaccendersi. Parliamo della psoriasi, è una malattia della pelle cronica, recidivante. Diciamo subito, e lo voglio sottolineare, che non è contagiosa, ma si caratterizza per la presenza di chiazze rosse dai bordini ben definiti, che possono essere ricoperte parzialmente o totalmente da squamette secche, bianche, argentate, a volte anche brillanti. Può interessare solo alcune zone circoscritte, che so, i gomiti, le ginocchia, il cuoio capelluto, le unghie, oppure essere presenti in tutto il corpo. Ci sono forme lievi che molto spesso non arrivano neanche all'attenzione del dermatologo, e forme più severe per le quali sono a disposizione dei trattamenti sempre più mirati. Allora, se la vostra pelle vi sta lanciando un SOS, voi spegnete l'incendio chiamando il nostro numero verde in 800 24 00 24. In linea con noi a partire dalle 11.45 avremo il piacere di avere la professoressa Katie Peris, che è direttore della clinica dermatologica dell'Università Cattolica di Roma. Camcamini, camcamini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do. Ecco, diciamo che nella maggior parte dei casi lo spazza camino l'abbiamo sostituito un po' con il manutentore della nostra caldaia, però sì, l'immagine però, è carina. Sì, però lo spazza camino, quello di Mary Poppins, è molto carino, sì. Allora, anche se poi quella dello spazza camino è una professione tutt'altro che scomparsa. Ne parleremo a Cuore Denari. Perché no? Perché è una professione che ci è rimasta nel cuore, sì. Però potrebbe essere anche un'occasione. E che tema di cuore vorresti associare allo spazio? Dai, ci troverai penso. Qualcosa? Noi invece no, non me ne è venuto abbiamo... uno, ma non è il caso. Va bene, poi magari ci svelerai il mistero alla fine della trasmissione. Non è il nostro spazzacamino, ma è un po' il nostro manutentore, il nostro uomo del cambio di stagione. Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. L'invito, io torno sempre volentieri. Lo sappiamo che lei ama Cuore Denari. Allora, 800 24 00 24, intanto è il numero verde per i nostri ascoltatori, ai quali chiediamo: avete già fatto controllare quest'anno il vostro impianto di riscaldamento, se l'avete fatto l'anno scorso? Soprattutto vi chiediamo se avete ben chiare quali sono le disposizioni della vostra regione in merito, perché alcune cose cambiano da una zona d'Italia all'altra. Ne parleremo tra poco con il nostro appunto Luca Falco per rispondere alle vostre domande, ma intanto gliene facciamo qualcuna noi. Falco, le temperature sono ancora piuttosto miti, direi per fortuna, in tante parti d'Italia, e quindi in questo momento sicuramente il nostro ultimo pensiero è quello di accendere il riscaldamento, però è bene che per quando sarà il momento le cose siano a posto. Abbiamo una novità quest'anno, e cioè che c'è un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che ci dice che dobbiamo compilare un nuovo libretto di impianto. In che cosa consiste questa novità? Mentre parlava stavo pensando che sì, tutti gli anni che sono venuto da voi ce n'è una. C'è stata una novità. Ecco, beh, diciamo questo, che voi non vi annoiate e noi neanche. No, ma il motivo è importante, perché si parla di energia e di risparmio energetico, che dovrebbe essere una delle priorità delle nostre famiglie e del nostro paese. Il libretto di impianto non è altro, detto semplicemente, un raccoglitore di tutti i dati relativi ai nostri impianti. La nostra casa, la nostra abitazione inizia ad avere più generatori, perché abbiamo magari la stufa, la pompa di calore, piuttosto che la caldaia. Bene, questo nuovo libretto di impianto contiene tutti i dati del nostro impianto, la nostra carta d'identità, proprio un raccoglitore, un plico dove dentro vengono raccolte tutte le schede relative a tutti i generatori. Allora, e però qua noi dicevamo ogni anno c'ha la sua novità, ma mi pare che già dovessimo avere in casa tutti coloro che hanno una caldaia, un impianto di riscaldamento, il libretto di impianto devono già averlo. Qual è la novità allora del 15 ottobre? Ce lo scrive anche Roberta al 349-238-6666. In Veneto ho già fatto il controllo a maggio, ma ho ancora il vecchio libretto. Cosa devo fare a questo punto? Buttarlo e farne uno nuovo oppure aggiornare questo? Falco. Allora, il vecchio libretto di impianto era relativo solo alla caldaia. Proprio l'ho accennato prima velocemente, gli impianti delle case iniziano a diventare sempre più complessi e c'era il bisogno di avere un libretto che potesse gestire tutti questi generatori nuovi che si vanno ad aggiungere, piuttosto il solare termico, piuttosto che il riscaldamento con le pompe di calore. Non va buttato assolutamente il libretto vecchio, va mantenuto in questo catalogatore, perché contiene tutto lo storico del nostro generatore. Al momento della nuova manutenzione, il manutentore che arriverà compilerà questo nuovo libretto con tutti i dati, aggiungendo tutti gli impianti che magari nel frattempo sono aggiunti alla casa, come appunto l'impianto solare. Ecco, quindi Roberta, diciamo, per essere proprio tranquilla, che cosa deve fare? Di chiamare un nuovo manutentore, farsi portare un nuovo documento a casa che si vada ad aggiungere al vecchio libretto, oppure può star tranquilla fino alla prossima visita, diciamo, di manutenzione? Allora, il Ministero ha indicato anche nelle risposte, nel suo sito, che non bisogna assolutamente chiamare il manutentore perché vada di corsa dal 15 di ottobre in poi, perché sarebbe un costo, una spesa inutile, se non già effettuata la manutenzione. Al momento dell'intervento che ci sarà da fare, piuttosto che della nuova manutenzione, il manutentore andrà e compilerà il nuovo libretto. Ecco. Non dobbiamo diventare assolutamente matti, questo no. Certo. Tra l'altro, a proposito del nuovo libretto, Nicoletta, ieri pomeriggio con Marco Lombardo, mentre preparavamo la trasmissione, siamo andati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico per scaricarlo, per vedere se la compilazione era facile, fosse facile o meno. Figuriamoci, una decina di pagine un po', giustamente dico, incomprensibili. Dovevi chiedere a me. Volevi compilarlo tu, certo, un pochino, fare la il nuovo libretto di impianto. Io chiamavo Luca Falco. E certo, e lui compilava. 800 24 00 24. Intanto molti ascoltatori naturalmente lamentano la solita cosa, quella che va fatta ogni anno, di operazione di manutenzione, a cui quest'anno aggiungiamo anche l'ulteriore libretto. Insomma, sono tutti costi che ogni anno dobbiamo sostenere, quindi siamo naturalmente solidali con i nostri ascoltatori, però, come dire, è importante che l'impianto che abbiamo installato nella nostra abitazione sia assolutamente sicuro. Falco, vogliamo ricordare di nuovo le regole di base della manutenzione, no? Quali sono i controlli che ogni anno vanno fatti alla nostra caldaia, ammettendo di essere in un'abitazione tradizionale? Naturalmente abbiamo, certo, la caldaia che funge anche da impianto di riscaldamento, da avviatore dell'impianto di riscaldamento. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo imparare a fare come cittadini è quella di conoscere ciò che abbiamo installato in casa, per cui i libretti di istruzioni non releghiamoli nell'ultimo cassetto della cucina, magari sotto quello sportellino sotto il forno per cucinare. Ogni tanto diamogli un'occhiata e cerchiamo di capire cosa abbiamo installato in casa, cosa c'è stato installato in casa e come possiamo far sì che questo duri il più lungo possibile facendoci consumare il meno possibile. Perché questo è lo scopo di chi costruisce le caldaie e di noi manutentori che dobbiamo mantenerle in ordine. Per cui di lì ci sono le istruzioni primarie per capire ogni quanto va effettuata una manutenzione per far sì che il nostro impianto sia sicuro. Perché la cosa principale è che noi dobbiamo far sì che il nostro impianto sia sicuro per noi stessi e per gli altri. Quindi iniziamo a pensare ai controlli su tutti gli organi di sicurezza presenti nella caldaia, che vanno da semplice per il manutentore da verificare che l'impianto gas non perda, e quella è una delle cose principali, che gli organi di sicurezza agiscano nei tempi dovuti. Sembra una stupidaggine, ma un ritardo di un sensore potrebbe causare un danno molto più grave. E questi sono tutti controlli importanti. Poi ci sono anche i controlli stupidi, facili, semplici, che può fare il cittadino. Ad esempio? Verificare che non abbia l'aria nei termosifoni, perché quando si sente gorgogliare il radiatore non è perché abbiamo l'acqua, ma perché abbiamo l'aria. Il nostro impianto deve essere sempre pieno d'acqua. Quindi ci sono spesso delle valvoline per spurgare gli impianti, sì. E questa operazione fa sempre... semplice, fa sì che l'impianto funzioni meglio e i radiatori scambino al meglio. È ovvio, anche lì bisogna aver letto le istruzioni, perché se io tolgo qualcosa da un volume chiuso devo reinserirlo, e tutte le caldaie hanno un rubinettino al servizio dell'utente per reintegrare l'acqua che deve occupare il volume dell'aria tolta. Sono tutte piccole operazioni che bisogna compiere. Dobbiamo conoscere cosa abbiamo, è importante, non possiamo... Certo, no, ma io quello che poi in aggiunta volevo chiederle, quali sono proprio quei controlli obbligatori, perché lei si ricorderà, prima lo ha fatto, in tutti questi anni in cui ho fatto delle trasmissioni con voi ogni anno, c'erano delle novità appunto da spiegare e raccontare agli ascoltatori. Una delle più grandi degli ultimi tempi è stata quella famosa della rimodulazione dei tempi obbligatori di controllo della caldaia dai 2 ai 4 anni a seconda della regione in cui si abita. Quindi Falco, per riepilogare quella situazione là, per poi andare alle domande dei nostri ascoltatori che vedo che già stanno affollando. Sì, c'è Maurizia dalla provincia di Varese e subito dopo anche Donato che abita lì vicino. Tutti là oggi sono particolarmente concentrati su questo problema, evidentemente. Perché piove, inizia a avere un po' di freddino. Guarda, stamattina Milano di un grigio proprio orribile. Falco, ritornando a noi, manutenzione, controlli, famoso controllo fumi, l'efficienza energetica, il controllo per la sicurezza della caldaia. I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti una volta ogni 4 anni per tutti gli impianti a gas con potenzialità inferiori, cioè dai 10 kW ai 100 kW. Io non sono stato molto contento e convinto che questa sia stata una soluzione, perché secondo me è molto pericolosa, soprattutto perché rientrano anche piccoli condomini, cioè, all'interno di questa fascia di potenza. Diciamo che poi l'obbligo dice di poter fare il controllo ogni 4 anni, poi è chiaro che la regola, esatto, di buon senso, ecco. È un'altra cosa. Si parla di controlli di efficienza energetica finalizzati solo all'invio del documento all'ente pubblico, nulla di più. Cioè non sono il problema che abbiamo noi in Italia è che se vi è un obbligo che dice ogni 4 anni, tutto diventa ogni 4 anni e ci si scorda invece di una parte importante. Perché ci sono 2 articoli in questo DPR che chiariscono molto bene cos'è efficienza energetica e cos'è sicurezza. Oltretutto, la cosa importante che però va detta è che tutti gli enti pubblici dovrebbero, uso il condizionale perché è pazzesco, dovrebbero adeguarsi al nuovo DPR controllando primariamente tutti coloro che non hanno effettuato il controllo di efficienza energetica, per cui non hanno ricevuto il rapporto di intervento, ovvero il manutentore in questo caso quando effettua il controllo invia l'allegato all'ente pubblico e l'ente pubblico competente non deve più far verifica. L'ente pubblico qual è, Falco? Il comune, la provincia o la regione? Allora, teoricamente adesso è la regione, tutte le regioni dovrebbero adeguarsi e siamo in un momento in cui ogni tanto qualche comune superiore ai 40.000 abitanti o qualche provincia si inventano delle procedure particolari, per cui noi abbiamo fatto tantissime segnalazioni al Ministero, vero, che ci sia un po' di ordine. E infatti, allora, poi andiamo agli ascoltatori, ma il controllo di efficienza energetica, quello per cui vige l'obbligo di essere effettuato ogni 4 anni, è il famoso controllo fumi o il controllo fumi è il controllo della sicurezza dell'impianto, non è allora, quello di efficienza energetica, per fare un po' di ABC, perché qua anche io e Nicoletta vogliamo un po' capire. Allora, il controllo dei fumi, ovvero la verifica della combustione della caldaia, è un controllo importante che serve sia durante la manutenzione per verificare che al termine del mio lavoro abbia tarato completamente la caldaia, ed è lo stesso controllo che, modulato nei 4 anni, serve da inviare all'ente pubblico per dimostrare che la caldaia sta bruciando correttamente, non inquina e non spreca. Quindi non è quello di sicurezza che invece andrebbe fatto un po' più spesso, meglio ogni anno, dite voi, giusto? Sì, oddio, sarebbe meglio, poi ognuno di noi ha la propria vita nelle sue mani, quindi non possiamo obbligare. Lei ogni quanto lo controlla, ma lui tutte le settimane sta lì a controllare. Perché la sua caldaia. Già, quando ha detto dovete tirare fuori il libretto, non mettetelo nel cassetto in fondo della cucina, nell'ultimo ha detto questo è venuto a casa mia, perché io tengo tutto lì. Perché secondo te io dove li tengo? Lì Falco, a portata di mano. Falco, lei ogni quanto la controlla? Allora, io dico la verità, essendo che io mi diverto col mio lavoro, spesso faccio degli esperimenti, per cui io spesso maneggio, gioco e mi diverto sulla combustione della mia caldaia, quindi almeno una volta al mese io qualche modifica, qualche esperimento lo faccio. Sì, ma non va bene questa voglia, perché non tutte vanno a buon fine, quindi insomma. Mamma, quante volte ha sbruciacchiato le pareti di casa? Abbastanza, non posso raccontare. È come il ciabattino che ha le scarpe rotte, no Nicoletta? Come dire, si può paragonare Falco anche a... Allora, Falco ama la sua caldaia, insomma, ti amo caldaia. Andiamo a Maurizia che ci chiama dalla provincia di Varese. Lei ride, ma attenzione che la chiamiamo anche io e Deborah, così solleviamo anche un po' la moglie di Falco, no? Guarda che sai che lui scrive anche dei romanzi, non vorrei che poi ce li riportasse e ci costringe a leggerli di nuovo. Però. Maurizia, buongiorno. Maurizia, buongiorno. Dunque, capitate proprio a fagiolo, come si suol nel dire. Senso che proprio stamani io ho effettuato la pulizia della caldaia con la prova fumi, quella biennale, e avevo posto il problema del cambiamento del libretto, ma il manutentore mi ha risposto tanto è al 15, poi tanto lo prorogano, così mi ha scritto il tutto sul vecchio libretto e mi ha attaccato la solita cedolina lì con tutti i numeri, il bollino. Senta, tra l'altro Maurizia, quanto le è costata un po' l'operazione di stamattina, perché sa che qua la donna di denari allora, deve sempre un po' girare il coltello 120 nella... però effettivamente mi ha fatto anche il cambiamento del come si chiama, il polmone, la membrana si era rotta, perdeva, adesso Falco sa. Vedi che è preparato della pressione. Ma ho sentito polmone. Tra l'altro però del termocamino, perché io ho sia termocamino che caldaia, camera stagna, e per cui che si bypassano a secondo della temperatura eccetera eccetera. Come si va, ci sta il costo, Maurizia, tanto bene o male al di sotto degli 80 euro, mi ricordo anche degli anni passati che è un'operazione puntuale. Sì, questo cambiamento quindi in più, diciamo sì, forse era sui 90-100 gli altri anni, qualcosa del genere. Insomma. Allora il tema è che non le ha rilasciato il nuovo libretto, diciamo che l'obbligo vige dal 15 ottobre in avanti, però Maurizia dice già che è venuto stamattina, infatti. Falco, tra l'altro, per chi non adempie, ci sono delle sanzioni per chi non si dota del nuovo libretto, insomma se qualcuno va a controllare, chi potrebbe controllare? Allora, l'ente pubblico che si occupa delle verifiche degli impianti, quindi quando andranno a verificare bisognerà che se è stata effettuata una manutenzione dopo il 15 ottobre ci dovranno essere assolutamente documenti. Ma la verifica viene fatta fisicamente? Chi è che controlla? Io non ho capito. Allora, si stanno riorganizzando un po' tutti, perché facendo capo alla regione poi dovranno regolamentarsi e decidere chi sia l'ente di controllo. In questo momento l'ente di controllo che effettua le verifiche è ancora quello che era in vigore ad oggi, quindi sopra i 40.000 abitanti il comune, sotto i 40.000 abitanti la provincia, sopra i 40.000 abitanti il comune, quindi questo è l'ente. Come, mi scusi, sotto i 40.000 abitanti la provincia? La provincia, sì. Ma è un controsenso? No, perché sotto i 40.000 abitanti la provincia controlla tutti i comuni inferiori ai 40.000 abitanti. Sopra i 40.000 abitanti è un comune già abbastanza grosso, di un certo peso. Vabbè. E quindi sembra un po' sopra la panca la capra canta. Esatto. Per sintetizzare, perché poi andiamo ai mercati, Maurizia deve temere qualcosa per il fatto che questa mattina il suo manutentore non gli ha rilasciato il nuovo documento, può star tranquilla? No, secondo me può star tranquilla, anche perché probabilmente dovrà anche chiamare il manutentore del termocamino a legna, quindi comunque anche lui gli dovrà rilasciare il libretto d'impianto per... E lì insomma il suo fascicolo crescerà. Ci vuole una cassapanca per tenere tutti questi documenti, altro che il cassetto. Solo che voglio dire, il manutentore le ha detto, ma tanto è inutile che te lo faccia perché prorogheranno, mi sa che non prorogano bel niente perché ormai il 15 ottobre c'è. Ognuno lì va nella propria... di come uno decide di gestire la nostra azienda. Il ministero ha anche detto che chiunque voleva poteva compilare nuovi libretti e già consegnarli. Dipende poi dalle scelte personali e dall'organizzazione, perché considerate anche per un manutentore cambiare tutto è anche un costo importante, non è una cosa leggera. E quindi in momenti di crisi la crisi c'è sia per il cittadino che purtroppo anche e soprattutto per le imprese. È vero. Allora andiamo a sentire. Bravo. Ogni tanto c'è il nostro Mino, ogni tanto non c'è. Oggi Carmelo. Cuore e denari. La pelle, da quel giorno che sei nato ce l'hai. Siamo tornati insieme oggi, puntata dedicata alle accensioni. Dal 15 ottobre scatta l'obbligo dei nuovi libretti di impianto per la caldaia e qui a Cuore Denari ci stiamo preparando con l'aiuto del nostro esperto Luca Falco. E intanto Debora si sta già raffreddando a proposito di caldaia. Avete sentito lo starnutone? Ma in autunno ad accendersi a volte è la nostra pelle. Molte malattie dopo il break estivo si riacutizzano. È il caso della psoriasi, una malattia della pelle con cui si confrontano più di 2,5 milioni di italiani, ma il dato potrebbe essere sottostimato poiché spesso le forme molto lievi localizzate non arrivano all'attenzione del dermatologo, si preferisce il fai da te. Allora voi fate una bella cosa, non sfuggite, 800 24 00 24. L'autunno ti fa sonnolento, la luce del giorno è un momento che irrompe veloce e svanita. Eh sì, è proprio autunno che ci riporta a temperature un po' più rigide e che insieme ci porta il pensiero della manutenzione della caldaia. Questa mattina con Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato, stiamo facendo un riepilogo della situazione su scadenze varie che sono diverse a seconda delle regioni. Tra l'altro è già qualche ascoltatore ci sta segnalando appunto di mettere l'accento proprio su questo aspetto. Altre novità che riguardano proprio quest'anno: dal 15 ottobre abbiamo l'obbligo appunto di dotare i nostri impianti del nuovo libretto di impianto, naturalmente adempimento che è a carico del nostro manutentore, ma se glielo ricordiamo è meglio, perché sennò finisce come l'ascoltatrice di prima che l'ha ricordato stamattina al suo tecnico, ma lui gli ha detto ma sai dai aspetta. Dai, il 15. Il 15 è ancora lontano. Allora Fabrizio della provincia di Lecco ci solleva appunto proprio la questione sulle differenti prassi adottate dalle regioni. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io velocemente, anche perché sto lavorando, io non sono manutentore, sono un installatore, comunque sì. Tendo a informare i miei clienti e volevo appunto dire, sentendo chi ha parlato prima di me, parlava di ogni 4 anni, in Regione Lombardia parla di ogni 2 anni il controllo dei fumi. E sì. Per quanto è a mia conoscenza, poi demanda tutto anche al libretto di uso e manutenzione della caldaia, quindi se il libretto dovesse dire ogni anno, probabilmente andrà fatto ogni anno. Guardi Fabrizio, Luca Falco su questi aspetti è molto, molto professionale, già negli anni passati certo. Eravamo molto chiari su questi termini, come lei giustamente ha indicato. Allora Falco, naturalmente forse Fabrizio si è perso qualche passaggio nel nostro ragionamento precedente, ma riepiloghiamo in termini generali: c'è la scadenza dei ogni 4 anni appunto per quello che riguarda il controllo fumi e quindi l'efficienza energetica, ma le regioni possono disciplinare appunto diversamente, quindi ridurre questi tempi. Esatto, io ho parlato in termini generali. La regione Lombardia è stata una tra le prime regioni oltretutto a istituire il catasto informatico degli impianti e per scelta regionale hanno deciso di, io oltretutto lo trovo corretto, di indicare la periodicità delle manutenzioni ogni 2 anni. L'energia è una cosa importante, credo che la scelta della regione della Lombardia della periodicità biennale sia dovuta al fatto anche che il consumo per riscaldare le abitazioni o raffreddarle comunque, è un consumo importante, è un consumo che pesa e cuba, quindi è giusto che vengano controllate e verificate in modo più ravvicinato. E poi è stata data questa indicazione temporale massima, che bisogna ricordarsi comunque, come ha detto giustamente l'installatore, che ciò che fa fede è quanto scritto sul libretto che, di cui parlavamo prima. Cioè che dirà naturalmente Falco, perché questo l'abbiamo detto tante volte, che il controllo va fatto ogni anno, perché io dubito che un libretto che ci ha dato l'installatore appunto possa dire qualcosa di diverso. È chiaro che anche, come ne va del lavoro di tutti questi professionisti, no? Però sì, dubito che possa dire qualcosa di diverso dell'anno. Soprattutto se non sono indicazioni date ai fini della sicurezza e l'installatore le prende dal libretto di istruzioni, sono ben poche le case costruttrici che si prendono la briga di dire la mia caldaia puoi utilizzare tranquillamente, falla ogni 4 anni, certo. Che io sto tranquillo. E vabbè, quindi insomma allora, il tema è che se anche io volessi andare a guardare, se vivessi in una regione diversa dalla Lombardia e che ne so, il Molise mi dicesse puoi farlo ogni 4 anni, se nel libretto che mi è stato consegnato quando ho installato l'impianto c'è scritto ogni anno, e da lì non mi posso muovere. Esatto, sarà l'invio all'ente pubblico che dovrà essere fatto ogni 4 anni, ma la verifica di sicurezza e controllo dovrà essere assolutamente fatto secondo quanto indicato sulle di istruzioni. Tu sbagliavi già perché mandavi, tu facevi e mandavi. Ma io invece sì, no. Io figurati. Meglio che tu abiti qua. 800 24 00 24. Ma tra l'altro, ecco, sai che cosa mi veniva in mente? Che adesso stiamo parlando proprio di riscaldamento, però conviene, questo lo dice la donna di cuore, di non riscaldare troppo le nostre case per tutta una serie di ragioni, ma anche per assicurarci il grasso bruno, è un grasso molto particolare, un tipo di tessuto adiposo che fino a qualche anno fa si riteneva presente solo nel neonato, ma invece adesso negli ultimi tempi si è scoperto che è presente anche nell'adulto. È un grasso che ci piace, ne avevamo già parlato. Sì. Perché ci piace? Perché questo tipo di grasso un po' abbronzato ha una caratteristica particolare: anziché conservare l'energia, la brucia per generare calore, una specie di piccola caldaia, vedi, anche lui. Come facciamo? È plastico, ma si attiva con le basse temperature, mentre con il caldo si spegne un po'. Quindi dormire ad esempio un po' al fresco converrebbe. E di questo sicuramente sono certa che è d'accordo anche il nostro Luca Falco. No, stavo pensando, siccome a me invece piace il teporino quando si arriva a casa, mi piace il caldo, sono una proprio di quelle molto sconsigliate a cui piace stare in maniche corte d'inverno in casa perché c'è il caldo nell'abitazione piuttosto che mettere il maglione in più. E il grasso bruno dove me lo metti? Ecco, infatti ecco perché non riesco a buttar via chili, forse sarà per questo motivo. Luca Falco, caldaie grasso bruno, avrebbe mai pensato che a cuore denari veniva a scoprire questa relazione molto stretta? No, questa mi era sfuggita, devo ammettere che per quello che io non voglio dimagrire, nonostante che mi inciti a mettermi a dieta, comunque, allora sicuramente c'è un fatto che se noi avessimo un controllo della temperatura con dei sistemi che adesso sono anche abbastanza economici, tipo le valvole termostatiche in tutti i radiatori, potremmo gestire al meglio le temperature magari delle camere da letto tenendole qualche grado inferiore, avere un benessere maggiore, un consumo di gas e di energia inferiore, quindi è una bella bel risparmio economico. In bolletta parliamoci. Bravo. Quindi diciamo ne va del nostro benessere, della nostra linea e anche del nostro portafoglio. Perfetto, un cuore denari. La caldaia è proprio il tipico tema da cuore denari. Allora andiamo da Gianni che ci aspetta, ci chiama da Milano. Gianni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, un caro saluto alle due conduttrici, Debra e Nicoletta. La mia domanda è questa: io telefono a Milano, però è relativo a un impianto che ho, cioè la casa di mia madre in Piemonte. Sì. Io ho programmato la verifica proprio giovedì, giorno 13. A questo punto la mia domanda è: posso, mi conviene rinviare il controllo per avere il libretto, il nuovo libretto di impianto? Ma io guardo Gianni. Sì. Sì. No, stavo pensando, cioè se uno lo fa a 2 giorni precedenti alla scadenza e magari fa una chiacchierata prima con il proprio manutentore, gli dici guarda, vieni, ma sappi che siccome c'è la scadenza, c'è l'obbligo dal 15 in avanti, vieni con il documento prima. Tu non lo faresti? No, io rimanderei, guarda. Ma perché? Ma io direi, guardi, è un impegno, ma venga al 17. Ma sarà un pensiero in meno per le prossime settimane, no? Anche questo è stato il mio pensiero. sera, quello di inventare la scusa e di rinviare, però io normalmente agisco in maniera corretta. No, ma a parte che qua non è scorretto no, nessuno, non è mica, uno può dire la verità, guardi, dato che il 15 o viene con il nuovo libretto, oppure facciamo dopo il 15, veda lei, se la verità si dice sempre. Ma Falco, lei che cosa si aspetterebbe che un suo cliente le dicesse? Allora, mentre sentivo la domanda dell'ascoltatore mi sono scritto telefonare al manutentore. Io mi aspetterei che il cliente mi chiamasse per chiedermi come mi comporto, per cui io due chiacchiere col mio manutentore di fiducia le farei, mi sembra il minimo, anche perché probabilmente lui ha programmato anche gli interventi sull'agenda, quindi non credo che... Io una telefonata gliela farei, nel senso che magari si potrebbe anche dirgli: guarda, preparalo, no, questo libretto nuovo, tanto per due giorni di differenza, che cosa ti costa? E quindi ribadiamo, in ogni caso, il tema sanzionatorio, Falco, solo per fare un punto finale, poi dobbiamo salutarla. Qualora non tutti velocemente si dovessero adattare alle nuove regole, esiste qualche sanzione in cui incorriamo? Sì, ci sono, ma adesso mi cogliete impreparato perché a memoria gli importi non me li ricordo. Quelli, comunque ci sono, perché l'ente che verifica e controlla verifica che la legge sia rispettata. Certo. Quindi c'è una scaletta di sanzioni come c'era prima. Giuro, non mi ricordo gli importi. Le ritroveremo e quindi adesso lei studia e poi al più presto faremo... La interrogheremo. Faremo intorno, verso fine novembre, Nicoletta, un sondaggio su quanti hanno il nuovo libretto d'impianto e quelli che ancora non ce l'hanno. E a proposito di spazzacamini, parlavi della puntata dello spazzacamino, due suggerimenti. Che due idee che c'erano arrivate, uno arterie e uno naso, e quindi potremmo abbinare spazzacamine con questi due temi di cuore. Alla prossima. Grazie Luca Falco, buona giornata. Grazie e buon lavoro naturalmente. Al noi prossimo cambio di stagione. Ma sì, guardi, ma magari anche prima, guardi, se qua questo libretto d'impianto non è molto chiaro per gli ascoltatori, magari al più presto ci ritorniamo. Intanto buona giornata. Cuore e denari. E dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Deborah, il libretto lo abbiamo cambiato. Sì. Adesso possiamo cambiare argomento. Bene. Anche se tutto sommato rimaniamo in tema di accensioni. Infatti in questa seconda parte del programma parliamo di psoriasi, è una malattia cronica recidivante della pelle che dopo la pausa estiva spesso torna a riaccendersi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Ketty Peris, direttore della clinica dermatologica dell'Università Cattolica di Roma. Buongiorno e bentornata. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Eccoci qui. Professoressa, la psoriasi può interessare tutte le parti del corpo, ma in particolare il cuoio capelluto, le ginocchia, i gomiti, le mani, i piedi, mi sembra più raramente il viso. Abbiamo detto che si presenta come delle chiazze rosse, dai bordi ben definiti, che possono essere ricoperte da squamette bianco più brillanti. Questo, professoressa, è quello che si vede e che spesso origina molti pregiudizi. Si pensa che la psoriasi sia contagiosa, ad esempio. Ma che cosa succede? Perché la pelle della persona affetta da psoriasi si presenta in questo modo, si squama? Beh, innanzitutto chiariamo ogni dubbio ribadendo che la psoriasi non è una malattia infettiva e non si trasmette per contatto diretto tra persone o attraverso indumenti tipo lenzuola o quant'altro. Chiarito questo, in realtà dobbiamo dire che la psoriasi è una malattia molto complessa e multifattoriale, il che significa che nel suo sviluppo concorrono fattori genetici, immunologici, ambientali. Però la ricerca degli ultimi anni, diciamo che ci ha fatto capire molto sulla psoriasi e su quali sono i meccanismi patogenetici della psoriasi, anche se però il primum movens, cioè la vera causa, non è ancora stata identificata. Certo. Ma forse perché non esiste una sola causa, probabilmente esistono fattori diversi che in maniera complessa interagiscono tra loro e forse siamo di fronte anche a diverse malattie. Professoressa, per quanto ci soffermiamo proprio per ribadire che la psoriasi non è contagiosa, non è una malattia infettiva, crea molti disagi ai pazienti, perché ne abbiamo parlato tante volte, essere benessere, proprio con l'aiuto anche della professoressa Katie Peris. Ma in pratica il ricambio delle cellule dell'epidermide è accelerato nella psoriasi, è per questo che si formano le squamette? Sì, è così, è proprio così. Ed è, come diceva lei, proprio una malattia tipicamente con riaccensioni e recidive, quindi riacutizzazioni e poi momenti un po' più tranquilli. Però ciò che è alla base è proprio una maggiore velocità delle cellule. Un turnover accelerato. Sì. Professoressa, parlando di psoriasi, dopo aver sottolineato che non è contagiosa, non è infettiva, dobbiamo aggiungere che due aggettivi che possono fare la differenza: è cronica e recidivante. Infatti è una malattia da cui non si guarisce mai al momento e che è caratterizzata, come diceva lei, da un andamento altalenante. Infatti in autunno, come abbiamo anticipato... Breaking news. Assegnato il premio Nobel per la fisica ai giapponesi Akasaki, Amano e Nakamura per l'invenzione del LED. Tutti i particolari nel GR24 delle 12. Il LED, hai visto? Sì, fa risparmiare l'illuminazione in bolletta. Qua cuore denari già si accende. Professoressa, i Nobel cadono sempre a cuore denari e noi siamo molto contenti. Hanno un buon gusto. Perché è un'ora clou. Professoressa, in autunno, come molte tante altre malattie della pelle, la psoriasi torna a riaccendersi e riacutizzarsi. È fisiologico? È normale che dopo la pausa estiva la pelle lanci un SOS? Sì, diciamo che è veramente molto frequente che dopo la pausa estiva e quindi dopo l'effetto benefico del sole o delle vacanze, per una serie di ragioni non ancora del tutto note, tende proprio a recidivare e quindi a riaccendersi. Sì, piano piano poi si riesprime, sì. Allora, lei ha anticipato che oggi sulla psoriasi si conosce molto di più, anche in base a numerosi studi si può dire che la psoriasi è una malattia poligenica, professoressa? Che, sì, è corretto. Un termine quindi che noi sappiamo sta ad indicare il coinvolgimento di più geni, quindi questo in pratica spiega, professoressa, perché non esiste una cura valida per tutti, ma la terapia come sempre debba essere molto personalizzata, ma di questo avremo modo di parlare. Per ora mi soffermerei su un aspetto, e cioè che la psoriasi può insorgere all'improvviso e che non fa distinzioni di età e di sesso, è così? Sì, è così. Può insorgere all'improvviso o può anche riaccendersi improvvisamente dopo un periodo, diciamo, di calma, e questo può succedere per diversi fattori. Sì, sì. Per fattori scatenanti, sono quegli, no, eventi che possono provocare la comparsa di una malattia magari già presente, però in uno stato di latenza. Esatto, sì. E possono essere di diverso tipo, possono essere infezioni tipo un'infezione tonsillare, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, oppure traumi proprio di tipo fisico come il grattamento, le cicatrici chirurgiche, dove tipicamente ricompare la malattia. Professoressa, l'alimentazione può avere un ruolo nello sviluppo della psoriasi? Nello slatentizzare la psoriasi, perché non... No, nello slatentizzare non ci sono dati, però questo è un argomento di grande interesse nel mondo scientifico oggi, perché in realtà quello che si sta cercando di fare è di capire quale tipo di dieta alimentare è adatta al paziente con psoriasi, perché se i pazienti eseguono una dieta alimentare magari ipocalorica, migliorano la psoriasi, per cui è un contributo al miglioramento della malattia in generale. Abbiamo i nostri ascoltatori che si mettono in contatto con noi all'800 24 00 24, con cui oggi vorremmo proprio parlare di quelle forme molto lievi di psoriasi che vengono scambiate con altre malattie della pelle. Dove andiamo? Cominciamo con Marisa da Imperia, che credo voglia raccontarci di quello che è accaduto a suo marito. Marisa, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Mio marito da circa 15 anni è soggetto a attacchi di psoriasi, prevalentemente alla testa, quindi zona forfora, che in precedenza anche tagli sulle dita delle mani. Però quasi tutte le sue ricadute, chiamiamolo così, sono in momenti di forte stress lavorativo, professionale o anche emozionale, chiamiamolo così. Cerco di mantenere per lui una dieta ipocalorica, come diceva prima la dottoressa, perché effettivamente ha notato un miglioramento. Sì. Però contro lo stress nulla posso fare, ecco. Per cui al di là del sole, dell'applicazione alla luce, tutto. Contro lo stress cosa si può fare? Cosa si può fare? Lo stress perché riattiva la psoriasi, ma anche molte altre malattie dermatologiche. Cuore e denari. Salviamoci la pelle. Che bello. E noi torniamo a accendere i riflettori sulla psoriasi. Ce ne sono diverse forme, di diversa gravità. Noi oggi, insieme alla professoressa Katie Peris, cerchiamo di portare all'attenzione quelle forme lievi che si presentano con sintomi magari sfumati, circoscritti, ad esempio sul cuoio capelluto, su gomiti, ginocchia, che si presentano secche, a volte tendono a prudere. A questi segni, se piccoli e circoscritti, solitamente non si dà peso, al massimo si dà una crema con l'obiettivo magari di contrastare la secchezza. Professoressa Peris, e invece è importante arrivare a fare diagnosi, perché abbiamo detto e anticipato che la psoriasi è una malattia complessa. Sì, io direi che proprio è importante che sia diagnosticata e curata proprio quando i segni della malattia sono minimi, quindi le persone non dovrebbero trascurare piccole cose, anche per esempio la presenza di una forfora abbondante oppure piccole chiazzette sullo sterno o sulla regione interglutea o sulle unghie, perché queste a volte sono proprio l'espressione di una psoriasi e a volte anche di una forma artropatica, quindi sono piccoli segni ma importanti. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Abbiamo in linea con noi Davide, Roberto, ma giustamente Deborah mi ricorda che dovevamo rispondere alla nostra ascoltatrice, appunto, che ci ha chiamato in precedenza segnalandoci un po' il problema di suo marito, e aveva riscontrato che, come dire, l'accelerazione della psoriasi era particolarmente associata a periodi di stress, accesa dallo stress, senza LED. Sì, nel senso che gli eventi stressanti è vero che sono correlati ad un aggravamento della psoriasi e a volte sono causati o da eventi spiacevoli o drammatici o anche momenti di particolare lavoro. Questo però mi dà l'occasione per dire che gli eventi stressanti peggiorano la malattia oppure la slatentizzano, ma non sono mai la causa della malattia. Cosa che invece si sente ancora molto dire. La signora non credo possa fare molto altro se non forse consigliare delle tecniche di rilassamento per affrontare un po' meglio i momenti di stress. Ma a parte questo, una terapia specifica. La gestione, bisogna imparare la gestione dello stress. Questa è veramente una cosa difficile, soprattutto in questo periodo particolare. I nostri ascoltatori ce lo scrivono, insomma, la crisi non aiuta. Esatto, se non è la psoriasi, diciamo che a volte la somatizzazione è di carattere diverso. Stanno aumentando. Intanto andiamo dove? Varese o Modena? Andiamo, direi, a Modena, perché questa mattina Varese è stata, come dire, stragettonata, quindi Davide, aspetta un minutino perché diamo la precedenza a Roberto. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Benvenuto. Io chiedevo questo. Io soffro di psoriasi in testa e volevo sapere se ci poteva essere una correlazione col fatto che io ho preso la varicella a militare, ho contratto, e da quel momento lì mi sono venute le crosticine in testa, e come avete detto voi in precedenza ci sono fasi alterne dove sono più accentuate o meno accentuate a seconda del periodo. È una possibilità questa? Questa è la mia domanda che volevo fare alla dottoressa. E io aggiungerei, Roberto, io chiederei anche alla professoressa Katie Peris se ci sono dei trattamenti, che cosa è cambiato rispetto al passato. Professoressa. Sì, allora, se il nostro ascoltatore ha notato una correlazione temporale proprio tra l'una e l'altra cosa, le possibilità sono due: o che sia una cosa casuale, una coincidenza, oppure che la varicella abbia agito, come si dice, da Kebner, quindi da stimolatore della malattia in quella sede. Quindi non è un'idea assurda, sì, ma possibile. Per quanto riguarda le terapie, ce ne sono tante, certo, oggi, davvero tante, da nuove terapie locali, se c'è una sola sede interessata come il cuoio capelluto, ma anche a tante terapie sistemiche che sono autorizzate in questi casi. Quindi ci sono tantissime opzioni. Ecco, l'importante, e noi oggi vogliamo sottolinearlo, soprattutto perché oggi puntiamo i riflettori sulle forme lievi, quelle forme che spesso noi confondiamo, ci facciamo autodiagnosi, tendiamo a confonderle con altri problemi, diciamo ma qua è un po' di secchezza ai gomiti, oppure ho la forfora, d'altra parte sono stressato e mi viene la forfora. Ecco, noi vogliamo concentrarci su queste forme e capire anche dalla professoressa Katie Peris se ci sono anche creme, trattamenti che in qualche modo accompagnano, no, più facilmente la terapia, sono più di facile utilizzo. Professoressa? Sì, sì, sì, ci sono tantissime formulazioni, da creme a gel a schiume, che servono per il periodo di trattamento, quindi per periodi più o meno lunghi, che possono essere da 3 settimane a 2 mesi. E poi, quando il paziente sta bene, è molto importante, secondo me, fare una terapia di mantenimento. Quindi, se parliamo della pelle, per esempio, idratarla sempre molto. Ecco, cosa vuol dire idratare la pelle? Così rispondiamo anche a molti SMS che sono arrivati. Ci sono delle creme, che cosa dobbiamo, quali creme dobbiamo scegliere? Dobbiamo scegliere delle creme che non contengano idrocarburi policiclici, quindi niente vaselline e petrolati, delle creme base da mettere una volta al giorno su tutto il corpo, sempre, non soltanto nel periodo in cui una persona fa il trattamento perché ha un po' di psoriasi, ma proprio come stile di vita, esattamente come facciamo altri procedimenti, tipo toglierci il trucco, lavarsi i denti. Allo stesso modo, uno psoriasico, così come una persona con una pelle sensibile, deve curare e idratare la pelle tutti i giorni. Ecco, ricordiamo, Deborah, ce lo segniamo, no petrolati, un po' l'avevamo imparato un po' questa lezione dalla dottoressa Serri, che abbiamo sempre nel cuore. Allora, chiudiamo la parentesi, perché sennò mi commuove. Andiamo dalla provincia alla provincia di Varese. Andiamo Davide. Da Davide, dai. Sì. Davide, buongiorno, benvenuto. Che è successo stamattina a Varese? Vi siete tutti messi all'800240024, perché ci ha chiamato. Intanto buongiorno. Intanto io vi ascolto sempre con regolarità, facendo l'agente di commercio, sono in macchina, quindi sono sempre sintonizzato su Radio 24. Ma anche perché lei ci vuole cercare, Davide. Devo dire che ci sceglie. Sì, ci sente? Sì, no, ma io volevo dirle, Davide, che lei ci sceglie anche, non è che casualmente. No, io proprio sono proprio molto fedelissimo ascoltatore. Mi piace. Ho già avuto ascoltando la trasmissione, diverse risposte, per cui sono abbastanza soddisfatto. L'unica mia curiosità era, io sono psoriasiaco dal 2000 più o meno, soltanto che a me i sintomi vengono esattamente all'opposto di come li avete descritti voi. A me vengono d'estate e non si riacutizza in autunno. Poi quest'anno ho avuto una grossa ricaduta e tuttora sono in day hospital, un giorno sì, un giorno no, sto facendo cure fototerapiche, certo, flebi, eccetera eccetera, e questa curiosità è rimasta nonostante la professoressa Katie Peris ha detto, Davide aveva già anticipato tutto, certo, perché la professoressa è top di gamma, come dice Deborah. Professoressa, sì. L'estate. L'estate, diciamo che il signor Davide purtroppo appartiene ad una piccola fetta di pazienti che sfortunatamente peggiora d'estate, quindi è un evento noto, possibile, e lui appartiene a questi, quindi purtroppo lui non potrà beneficiare, almeno per un bel po' di anni, se non sempre, del sole, proprio per questo motivo, almeno delle radiazioni ultraviolette. Deve fare altre terapie. perché abbiamo anche Monica da Padova, perché invece solitamente il sole nelle forme di psoriasi, ma anche per altre malattie dermatologiche, aiuta se preso con cautela, con le adeguate protezioni, vero prof? Sì. Aiuta tanto che le radiazioni ultraviolette vengono proprio utilizzate come terapia, si usa la fototerapia, quindi con gli UVB a banda stretta o la PUVA terapia, si usano ancora nella psoriasi, quindi è un grande beneficio, ma in alcuni casi questo non succede. Allora, introduciamo anche il capitolo bambini, perché molte mamme e molti papà all'ascolto ci stanno scrivendo, oltre che telefonando, e quindi all'800 24 00 24 raccogliamo volentieri la testimonianza di Monica da Padova, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Sì, io avevo una richiesta. Ho un bambino di 8 anni al quale 3 anni fa circa è stata diagnosticata la psoriasi. Non l'ha mai avuta in forma molto forte, fastidiosa, è solo all'occhio diciamo che risulta evidente. Quando gliel'hanno diagnosticata però mi dicevano che le forme infantili spesso spariscono completamente con la crescita. Mi conferma una cosa del genere? Professoressa. No, onestamente non posso proprio confermare un'affermazione del genere, soprattutto perché la psoriasi è imprevedibile nel suo decorso, quindi nessuno può dire la psoriasi migliora. In genere la malattia che migliora quando un bambino cresce è la dermatite atopica, non esattamente la psoriasi, però posso anche dire che oggi ci sono tante terapie anche per i bambini affetti da psoriasi. E quindi insomma non, abbiamo detto che la psoriasi è una malattia cronica, autoimmune, recidivante, ci sono delle cure. Monica ci chiedeva se sparisce con l'età. Non sparisce, però ricevuto una diagnosi, e questo è su quello noi vogliamo insistere, proprio su questo aspetto, professoressa Ketty Peris, è una malattia che si può affrontare e tenere sotto controllo. Sì, certo. Soprattutto evitando anche le tra virgolette complicanze come l'artrite psoriasica, di cui vogliamo certo parlare anche oggi, la accenniamo, poi troveremo magari più spazio in un'altra puntata, ma ci tengo a sottolineare questo aspetto. La psoriasi va diagnosticata per anche evitare di ammalarsi di artrite psoriasica. Sì, diciamo che nella psoriasi c'è anche la possibilità di un coinvolgimento delle articolazioni, che in genere è successivo di anni rispetto alla comparsa delle chiazzette cutanee. E qui torniamo, questo ci dà l'idea di quanto sia importante farsi vedere nelle prime manifestazioni ed essere seguiti nel tempo per non avere poi una diagnosi tardiva. Professoressa Ketty Peris, voi dermatologi soprattutto voi dermatologi che vi occupate di psoriasi avete una particolare attenzione nell'osservazione delle unghie. Sì, sì, sì. Ci aiuta, ci impresta il suo occhio clinico? Sì, diciamo che le unghie sono proprio un elemento importante nella diagnosi. I segni che possono essere importanti sono quella che viene chiamata iperkeratosi subunguale, quindi come se l'unghia si sollevasse per la presenza di cheratina sotto, sempre dovuta all'accelerata proliferazione delle cellule. E poi ci sono delle piccoli puntini che compaiono sopra l'unghia, che sono un altro segno importante, le chiazze chiamate color salmone, quindi le unghie hanno tantissimi piccoli segni che esprimono questa malattia e che dobbiamo cogliere. Anche l'osservazione delle unghie è importante anche nelle persone che hanno una forma molto lieve di psoriasi e circoscritta. Sì, perché l'unghia viene oggi considerata la parte terminale dell'articolazione e questa può essere il segno di un impegno articolare. Quindi mi raccomando, non trascurate la forfora, una forfora eccessiva, gomiti e ginocchia che sembrano più secchi, palme delle mani che si squamano. Sottoponetevi ad un controllo dal vostro dermatologo, che sicuramente arriverà ad una diagnosi, non è nulla, certo. Però se c'è la psoriasi ci sono dei trattamenti adeguati e soprattutto bisogna evitare che la malattia proceda, certo, senza controllo. Andiamo a Miriam da Crema, perché tra l'altro, proprio in relazione a quello che dicevi poco fa, Nicoletta, se avete il dubbio di avere un problema di questo tipo, fate tutti gli accertamenti del caso, ma giustamente ci chiediamo quali sono gli accertamenti, no, che vanno fatti, oltre chiaramente alla visita, immagino, dal dermatologo, quindi dal professionista corretto. Miriam da Crema, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie, io ho una bambina di 7 anni e da un anno che stiamo un po' tribulando tra allergologo e dermatologo, perché le mani gli diventano completamente secche e molto rosse, palmo delle mani e palmo dei piedi. Sì. Adesso è iniziato anche nella parte posteriore del ginocchio. Ci hanno detto che era un'allergia, poteva essere il gatto, il cane, gli alimenti, così abbiamo fatto tutto, ma non è risultata allergica completamente niente. E il dermatologo è in dubbio. Allora, chiediamo alla professoressa Katie Peris, è difficile fare diagnosi, ci sono dei casi in cui anche il dermatologo si trova nella difficoltà di arrivare a dare un nome a quel problema? A volte sì, soprattutto quando le forme sono veramente minime e sono nei bambini, dove ovviamente noi cerchiamo tutti i segni clinici per fare una diagnosi e certo non facciamo una biopsia, ma soprattutto da quello che diceva la signora è chiaro che la diagnosi differenziale si pone tra una dermatite atopica, quindi una pelle sensibile, e una psoriasi, e a complicare le cose oggi si sa che a volte le forme coesistono. Quando però è una forma così minima, io aspetterei e controllerei soltanto idratando tanto la pelle e basta. Tra l'altro, dottoressa, un'altra ascoltatrice invece al 349-238-6666 chiede, Luisella da Roma, che salutiamo, chiede se i bambini che hanno avuto la crosta lattea siano più esposti o meno al rischio di psoriasi da adulti. Allora, la crosta lattea in realtà è una espressione di dermatite atopica, ma anche in questo caso io preferirei che venisse ben verificato se si tratta di crosta lattea e quindi di una dermatite atopica, o se si tratta di una psoriasi del cuoio capelluto. Quindi è molto importante la diagnosi in questi casi. E in questi casi si può attendere. Sì. Certo. Diamo sempre il voce ad un messaggio che arriva al 349-238-6666, questa volta Agostino, che ci scrive che ha la psoriasi limitata a gomiti e ginocchia e si cura alle terme. Lui dice che è una vacanza meravigliosa dai farmaci. Professoressa Peris, un beneficio provato dalla ricerca? E quali sono, nel caso, i trattamenti termali più indicati? Dunque, noi abbiamo tanti. Siamo il paese delle terme, eh? Diciamo che le ricerche ci sono, ma non hanno dati robusti scientifici, però sicuramente c'è un miglioramento. Diciamo che le acque più adatte sono quelle sulfure, ma anche le acque quelle ricche di bicarbonato calcico e magnesio. Quelle sono le più indicate e ce ne sono svariate in tutto il territorio nazionale. Gianni ci scrive, esatto, che c'è una vasca. Sai perché mi è venuta in mente anche a me, Gianni? Perché l'ho fatta, quella di Vulcano. Una vasca di fango, esatto, sulfureo sull'isola di Vulcano, esatto, che fa molto bene. Io non avevo la psoriasi, ma l'odore addosso non ti dico per quante ore mi è rimasto. Professoressa Katie Peris, grazie. Grazie molte. Grazie a voi. Buona giornata e torni presto a trovarci. Grazie a Marco Lombardo e Laura Vanossi, i nostri Angeli Custodia, Carmelo Lauricella in assistenza tecnica. Noi cosa facciamo? Torniamo domani? Assolutamente sì, a domani. Cuore e denari.